Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:17 minuti, un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi ci occupiamo degli affitti delle case estive. Ovviamente questo era stato un tema scelto ancor prima di capire che cosa sarebbe poi successo questa mattina, quindi lo facciamo, affrontiamo questo argomento con il dovuto rispetto e la dovuta considerazione per tutte le notizie che stanno arrivando in questi minuti in redazione, e ogni qualvolta ci sarà la necessità di interrompere il programma lo faremo. Come avete sentito, sicuramente avremo un intervento dei colleghi del giornale radio alle 12:45 e poi alle 13 vi ricordo tutto il GR dedicato, uno speciale dedicato al terremoto e alle notizie che stanno giungendo dall'Emilia e non solo. A questo punto io vi presento gli ospiti che sono con noi oggi in questa puntata, che per me è piuttosto difficile affrontare, ma che comunque lo faremo come sempre. Affitti estivi, lo facciamo. Prima di tutto presento la collega che è in studio con me, la collega del Sole 24 Ore, Paola Dezza. Buongiorno Paola, ben buongiorno. Ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. E poi saluto coloro che sono collegati telefonicamente: Osvaldo Grandin, esperto del mercato turistico immobiliare per FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. E saluto anche Massimo Gaddoni, responsabile nuovi progetti di Solo Affitti per Solo Affitti Vacanze. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete raggiungerci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Adesso la nostra scheda. L'estate si avvicina. E quegli italiani che, nonostante la crisi, non rinunceranno alle vacanze, faranno probabilmente molta più attenzione ai costi del loro soggiorno. È il caso, ad esempio, di chi preferirà a un costoso fine settimana in hotel un periodo più lungo da trascorrere in una località marittima o montana, mettendosi alla ricerca di un appartamento da affittare a un prezzo abbordabile. Ma quali sono i passi da seguire per evitare brutte sorprese e, di conseguenza, rovinarsi la vacanza? È bene ricordare, ad esempio, che qualsiasi contratto di locazione, e quindi anche quelli turistici, deve essere scritto anche se dura pochi giorni. Se l'accordo con il proprietario non viene messo nero su bianco, può essere ritenuto nullo. Una regola che, purtroppo, si discosta in molti casi dalla realtà, soprattutto se l'affitto viene formalizzato per un periodo molto breve. Quando la durata supera il mese, diventa obbligatoria la registrazione, il che rende ancor più indispensabile la forma scritta, pena una sanzione fiscale. Un'altra attenzione importante va prestata alle modalità di pagamento. Il canone è libero e quindi viene determinato interamente dall'accordo tra le due parti. Il versamento però deve rispettare le regole sulla tracciabilità, come in ogni altro caso. I pagamenti da 1000 euro in su, quindi, non potranno avvenire in contanti. Altri punti importanti sono la durata del contratto, le condizioni che rendono possibile un risarcimento, i controlli opportuni da fare, se possibile, prima di firmare, accertandosi che tutto in casa sia perfettamente funzionante, al fine di evitare qualsiasi problema o fraintendimento alla riconsegna delle chiavi. Alcuni piccoli accorgimenti, insomma, possono far dormire sonni più tranquilli sia ai turisti che ai proprietari. Vi ricordo ancora una volta i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Allora, dottor Grandini, io partirei da lei perché vorrei capire un po', visto che questo, e non ce lo nascondiamo mai, è un periodo di forte crisi per il paese, per i cittadini e quindi ovviamente anche per le nostre tasche. Se avete già dei dati anche parziali su come si sta prospettando questo prossimo periodo di ferie e quindi come si stanno muovendo gli italiani sul fronte dell'affitto, del possibile affitto di una casa di vacanza. Certamente. Dunque, anche quest'anno diciamo che le prenotazioni sono abbastanza avanzate, però se noi andiamo ad analizzare singolarmente per periodo riscontriamo che confrontando il 2012 con il 2011, i mesi di gennaio e di febbraio portavano un aumento delle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Purtroppo da marzo in poi tutto è regredito. Oggi siamo ad una situazione che vede un ritardo sulle prenotazioni rispetto all'anno scorso di quasi il 20%, e questo non è una cosa piacevole. Noi veniamo comunque da un anno che era il 2011, che è stato un anno splendido per gli appartamenti gestiti in forma imprenditoriale, cioè dalle agenzie, per cui era pensabile che in un momento congiunturale come questo si potesse registrare una carenza. Non ci aspettavamo comunque un meno 20% come tutt'oggi. Dottor Gaddoni, lei a proposito di questi numeri ha qualcosa da aggiungere? Poi volevo capire anche sul fronte dei prezzi, se da un anno all'altro avevano subito delle variazioni consistenti, visto che comunque sia tutti ci dobbiamo adeguare a questo momento di crisi. Ma guardi, dal lato della registrazione dei flussi prenotazioni io confermo quanto anticipato dal dottor Grandini. Anche noi abbiamo registrato uno spostamento in avanti del flusso di prenotazioni. Rispetto ai prezzi, sostanzialmente c'è una ripresentazione dei canoni 2011 per quanto riguarda la stagione 2012. Quello che abbiamo riscontrato tramite i nostri agenti immobiliari è una maggior predisposizione da parte dei proprietari nel gestire insieme ai nostri agenti la predisposizione di pacchetti promozionali preventivi, al di là ormai del fenomeno consolidato delle prenotazioni last minute, quindi sicuramente una maggior sensibilità in anticipo rispetto alla fruizione delle vacanze su quelle che possono essere le problematiche di budget da parte dei turisti. Paola, quando facevamo due chiacchiere un po' per capire come gestire, come impostare questa trasmissione, parlavamo di come si orientano anche sul web gli italiani e dove lì possono trovare magari appunto offerte migliori o comunque spuntare un prezzo più consono alle proprie possibilità. Sì, diciamo che una tendenza crescente è quella proprio di cercare la casa delle vacanze in internet, navigando tra i siti specializzati che si sono moltiplicati negli anni, anche scegliendo chiaramente quelli più autorevoli, più sicuri, perché bisogna sempre stare attenti anche nella ricerca di evitare quelle cosiddette brutte sorprese che rovinano chiaramente la vacanza. E ne parleremo ovviamente, perché su questo ci vogliamo concentrare. E sul web si possono appunto trovare delle soluzioni a prezzi scontati, postate direttamente dai proprietari ma anche dalle agenzie immobiliari, quindi navigando su internet si riescono a trovare soluzioni anche più adatte alla propria famiglia. L'importante è cercare di avere un contatto col proprietario, di vedere bene le foto, quindi di cercare di capire esattamente la soluzione che viene proposta poi nella realtà come sarà. Però è interessante appunto dal punto di vista dei prezzi, perché in momenti di crisi si fanno proprio i conti in maniera molto più precisa nel momento in cui ci si concede una vacanza. Dottor Grandin, possiamo fare una panoramica abbastanza veloce di quali sono i rischi per chi va in affitto ma anche per chi affitta, perché poi da entrambe le parti ci sono delle attenzioni da prendere, delle cautele da adottare? Ma credo che per quanto riguarda la proprietà, nel momento in cui decide di mettere in locazione turistica un immobile, deve avere la certezza che l'immobile è adeguato dal punto di vista tecnico, amministrativo, dal punto di vista anche di tutta l'impiantistica, che deve essere garantita a norma. Dopodiché dipende un po' dal numero delle unità immobiliari che il proprietario dispone, deve ottemperare a delle esigenze specifiche della regione, perché come sappiamo la normativa sul turismo è normata da una legge quadro nazionale del 2001, ma che ha demandato in pratica alle regioni la gestione diretta, e quindi ogni regione va ad applicare delle normative. Il proprietario di fatto comunque deve rispettare queste regole e può gestire poi direttamente l'immobile oppure affidarlo ad un'agenzia per una gestione più imprenditoriale. Allora, abbiamo già un ascoltatore da Milano. Mario, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Sì, io praticamente volevo dire una cosa sugli affitti delle locazioni, praticamente nelle case sia al mare che in montagna. Sì. Tramite conoscenze, parenti, e anche noi qualche volta abbiamo affittato le case in questi ultimi anni. Devo dire che in realtà mi dispiace, però i comuni lo sanno che molti privati affittano le case e in nero. E addirittura molti uffici del turismo, se qualcuno chiama una località tramite l'ufficio del turismo e chiede la lista, l'elenco delle persone, dei privati che affittano le case, basta telefonare a queste persone qua per avere un'indicazione dei prezzi, e quando lei va a vedere un appartamento il prezzo è in nero praticamente, e questa è una cosa che mi dispiace, perché i prezzi poi sono anche alti sia al mare che in montagna. Sì. E devo dire che mi dispiace, perché c'è una grossa evasione su questa cosa qua, perché basta provarlo e non c'è controllo. Devo dire anche questa cosa qua, che non c'è controllo sia il paesino grosso, cioè il paese piccolo di montagna, che la grande località marittima, ecco. E questo è una cosa che non va bene, secondo me, ecco. Sicuramente non va bene. Poi diciamo anche che ci sono state delle modifiche nel corso degli ultimi mesi, lo citavamo anche nella nostra scheda, per quel che riguarda ad esempio il versamento del canone, che adesso è vincolato alle regole sulla tracciabilità dei movimenti in denaro, per cui non si può versare in contanti oltre 1.000 euro. Già questo dovrebbe essere un aspetto importante da osservare. Però io volevo con il dottor Gaddoni, ma velocemente, perché poi lo riprenderemo dopo la pausa, dopo la pubblicità, spot proprio parlare del verbale di consegna, che già quello potrebbe essere un primo elemento, e poi anche del contratto, che generalmente, o almeno così dovrebbe essere fatto in forma scritta. Sì, il contratto d'affitto è assolutamente in forma libera, però va sicuramente codificato in forma scritta dei passaggi fondamentali, prezzi, modalità di fruizione delle vacanze. Giustamente ha una grande importanza il verbale di consegna dell'immobile, nel quale viene certificato lo stato dell'immobile stesso, piuttosto che degli arredi e degli elettrodomestici. Visto che viene firmato dal turista, è fondamentale verificare che sia concorde con quanto poi trovato nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile, altrimenti è più difficile recuperare situazioni di difficoltà successivamente. Le 12:34 minuti, quest'oggi parliamo degli affitti delle case estive, lo facciamo ovviamente dandovi anche contemporaneamente tutti gli aggiornamenti su quanto è accaduto questa mattina in Emilia, la nuova scossa di terremoto. Ve lo ricordo, sarebbero 10 le vittime, ma non c'è ancora la conferma. L'ultima notizia che abbiamo è che sono riaperte tutte le linee ferroviarie, i treni vanno verso la normalità. Noi torniamo ad occuparci del nostro argomento, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Saluto Pietro da Salerno, buongiorno, benvenuto. Posso fare la domanda? Prego. Allora, volevo chiedere, in caso di affitti di estivo di una settimana, 10 giorni, quindi se il proprietario riscuote 200-300 euro, 400 euro, quindi una quota minima, questa quota è soggetta al pagamento della tassa con la cedolare secca, o c'è un'altra modo di tassare queste cose? Bisogna dichiararla? Allora, meno? Vediamo un po' se... E poi un'altra domanda, sì, prego. Se permette. Veloce. La cedolare secca si applica anche per i redditi alti, cioè se uno affitta 5.000 euro così al mese per tutto l'anno, un affitto, ma vale anche sempre questa cedolare secca? Non c'è un vantaggio per i redditi alti con questa cedolare? Allora, signor Pietro da Salerno, lei però ci fa troppe domande, e la cedolare secca non è l'argomento di oggi. La invito a seguirci ancora, perché certamente Salva Danaio si occuperà ancora di cedolare secca. Però prendiamo la prima parte della sua domanda. Volevo capire se il dottor Grandin ci può aiutare, perché il signore evidentemente affitta per un breve periodo e riscuote anche una somma diciamo contenuta, quindi si tratta qui di meno di 500 euro. Quali sono gli adempimenti che deve osservare il signor Pietro? Può comunque optare per la scelta dell'applicazione della cedolare secca, è un'opzione che fa lui, quindi indipendentemente dal canone che lui va a riscuotere, che possa essere dei 200, 300 euro o i 5.000 euro, lui sceglie per questa opzione. In questo caso ha la tassazione al 21% del suo reddito percepito. Altro caso, se non applica la cedolare secca, la sua aliquota sarà quella della sua dichiarazione di redditi. Ecco, a questo proposito, visto che il signor Pietro ce ne dà l'opportunità con la sua domanda, io le volevo chiedere, ma per quegli affitti molto brevi, quindi ad esempio se io ho una casa e intendo affittarla, faccia conto per un paio di settimane al massimo l'anno? Sì, allora non serve nessun adempimento, la formalità però esiste nella contrattualità da adottare con il cliente. Credo che in questo caso bisogna fare chiarezza sull'obbligatorietà o meno della forma scritta. Sì. E il paletto che va a determinare tutto ciò è la legge 79, cioè con l'introduzione del decreto legislativo Codice del Turismo dell'anno scorso, giugno del 2011, è stato messo un paletto di ripartizione. Fino a quel momento vigente era un articolo della legge quadro sul turismo che stabiliva che per la valida per un contratto valido è richiesta la forma scritta, però la forma scritta è prevista per la validità, non per la nullità. Oggi con l'introduzione del decreto che va a sancire in maniera chiara ed inequivocabile che la gestione delle locazioni turistiche è normata solo ed esclusivamente dal codice civile, sì, dall'articolo 1571 in poi, è chiaro che si riapre la possibilità di utilizzare anche la forma verbale. Noi comunque la sconsigliamo per ogni evenienza, perché solamente la forma scritta riesce a dare la tranquillità di tutte quelle condizioni che vengono specificate nel contratto, quindi io auspico che tutti adottino la forma scritta. Gualtiero da Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Senta un'informazione, io quest'anno ho affittato al mare per un mese e mezzo un appartamento, sono 20 anni che lo faccio, sempre con lo stesso proprietario. Accordo verbale, telefonico e poi saldo al momento, sì, alla fine. No, mi sembra che il proprietario non abbia intenzione di regolarizzare in qualche maniera questo accordo. Allora vorrei sapere, se le cose dovessero in qualche maniera essere scoperte, diciamo, le eventuali sanzioni colpirebbero il proprietario o anche chi, come me, prende in affitto l'appartamento? Allora, intanto, signor Gualtiero, noi ci auguriamo che lei non paghi in contanti, perché immagino che per un mese e mezzo di affitto l'affitto sia superiore ai 1.000 euro. Ma vediamo se il dottor Gaddoni ci può aiutare a risponderle. Eventualmente le sanzioni su chi arriveranno? Ma guardi, innanzitutto io suggerirei al radioascoltatore di insistere per ottenere la forma scritta, certo, anche perché la regolamentazione della parte economica del contratto è fondamentale che sia in forma scritta, perché si deve disciplinare il canone, l'accesso a servizi accessori, eccetera. In termini di sanzioni, direi che sicuramente la figura del proprietario è quella che può essere soggetta, ma anche il turista purtroppo non esce indenne, per cui diciamo che la sanzione viene applicata al 50%, quindi ribadisco la regola fondamentale di ottenere un contratto in forma scritta. Che comunque tutela tutti, sia chi va in affitto, sia chi la casa in affitto la mette al servizio di altri. Vediamo un po' quali sono, entriamo un po' più nello specifico su cosa bisognerebbe fare, su cosa è opportuno fare. Ad esempio, restiamo a parlare del pagamento. Qui voi, entrambi i nostri esperti, ci dicono che è sempre bene verificare che siano rilasciate delle ricevute di pagamento. Come ci si deve comportare anche in questo caso per periodi superiori ai 30 giorni oppure inferiori ai 30 giorni? Massimo Gaddoni. Ma la ricevuta di pagamento è un documento che attesta l'azione del pagamento, quindi ha questa funzione nello specifico. Il fatto che il soggiorno abbia una durata superiore ai 30 giorni semplicemente attiva l'obbligo di registrazione del contratto, con la necessità poi di ottemperare ai versamenti d'imposta. Giuseppe da Latina, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Senta, volevo chiedere se quando si fa il contratto, se ci sono dei termini per la presentazione del contratto, quindi se io faccio il contratto oggi, entro due giorni, tre giorni va a depositare il contratto, oppure ci sono tempi più lunghi? Quindi vuole sapere in merito al limite temporale. Perfetto, sì. Perfetto. Dottor Grandin, ci può aiutare? Entro 30 giorni, dalla venuta stipula per un contratto regolare. Perfetto. Il contratto regolare deve essere comunque in comarca da bollo, che deve essere datata antecedente o al massimo il giorno stesso della sottoscrizione del contratto, marca da bollo da 14,62 per foglio e quindi per 100 righe. Veniamo ancora a quelle che sono gli adempimenti che sarebbe bene fare prima di recarsi in una casa presa in affitto o ancora prima quando si stipula proprio il contratto. Una delle cose che il consumatore dovrebbe fare dovrebbe controllare un po' l'immobile che va ad affittare. Allora io vorrei chiedere ad esempio al dottor Grandin, come si fa a controllare un immobile che è distante molti chilometri e che proprio fisicamente non si riesce a vedere prima di andarci per le vacanze? Diciamo che non è possibile effettuare questo, quindi oggi il rapporto che si sviluppa principalmente a mezzo internet, perché la maggioranza delle prenotazioni avvengono prima con una visione sui siti internet, poi con un contatto telefonico e successivamente con la concretizzazione, portano a non poter visionare direttamente sul posto l'immobile. Chi è un operatore professionale però oggi mette a disposizione del cliente che ricerca la casa per le vacanze tutto quanto è possibile per facilitare tutto ciò, quindi con le immagini che sono presenti sui siti internet di tutte le stanze, una descrizione analitica e dotare tutte queste unità immobiliari di attrezzature e dotazioni che siano aggiornate. Non è pensabile oggi che le persone non possono visitare queste unità immobiliari, pensare di locare ancora appartamenti datati che possono avere immobili di 15-20 anni all'interno che non sono più di gradimento. Oggi lo standard vuole elevata qualità, quindi oggi la locazione della casa vacanza va la professionalità dell'agenzia stessa che propone questi prodotti. Allora, volevo girarvi una mail di un ascoltatore che mi sembra molto interessante. L'ascoltatore ci chiede: la mail di accordo tra il proprietario e l'affittuario, le mail di accordo, possono essere accomunate a una forma contrattuale scritta, dottor Gaddoni? Ma sicuramente hanno un valore probatorio su come è stato gestito il rapporto sì. tra il turista e il proprietario. Sì. Però ribadisco ancora una volta la regola fondamentale di arrivare poi a una forma scritta vera e propria con firma autografa una volta che si è giunti alla consegna dell'immobile. Le 12:48 minuti circa, questa puntata di Salva Danaio è stata dedicata agli affitti estivi. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Mentre ascoltavamo gli aggiornamenti dalla redazione, io e la collega Paola Dezza riflettevamo sulla telefonata di un precedente, di un ascoltatore, il quale ci raccontava dei suoi 20 anni di affitti praticamente in nero. Magari possiamo dire due parole anche su questo. Sì, nel senso che 20 anni sono veramente sono un periodo tanti. Molto lungo. Adesso con la cedolare secca forse molti proprietari sono avvantaggiati, è stata fatta proprio per far emergere il nero, però forse se si diffondesse un po' più la cultura della regolarità, diciamo, queste situazioni che in questo caso era una moltiplicata, non so per quante, in Italia le seconde case sono tantissime e le famiglie non le usano magari per tutta la stagione estiva se si tratta di mare, o invernale se si tratta di montagna, quindi immaginiamo quanti potranno essere certo. i casi di questo tipo ogni anno. Allora, vediamo un po' qualche sms che è arrivato al 349-238-6666. La caparra, una volta versata, è sempre persa in caso di rinuncia al viaggio comunicata con 2 mesi di preavviso. Dottor Grandin, come ci si deve comportare in questo caso? Penso di sì, perché la caparra, se viene precisata che sia una caparra confirmatoria, ha una valenza contrattuale per la motivazione che viene versata, quindi se una delle parti è inadempiente chiaramente perde, sia che sia il cliente stesso o anche il proprietario dell'appartamento che non mette più in disponibilità l'immobile, quindi la caparra si intende persa. Dottor Gandoni, anche se in questo caso ad esempio viene dato un preavviso molto ampio, si tratta di 2 mesi, magari si può pensare di prevedere una clausola all'interno del contratto? Ma guardi, sicuramente il turista deve avere questo tipo di informazioni in ciò che è pubblicato relativamente all'immobile scelto, quindi nella descrizione, nelle modalità di gestione contrattuali normalmente viene creata una sorta di area chiamata le regole della casa. Nel momento in cui le tempistiche di preavviso sono ben codificate, sicuramente il turista ha la possibilità di attenersi e di non incappare in penalità. O tutt'al più ci potrebbe essere la cosiddetta penale a scalare, per cui mano a mano che ci si avvicina al momento di partenza per le proprie vacanze, la penale può aumentare fino a coinvolgere tutta la caparra versata. Certo. Un altro ascoltatore, sempre al 349-238-6666, ci chiede: volevo sapere se si può affittare la prima casa. E questo, Paola, mi dà la possibilità di fare con te una breve parentesi su come, oltre agli affitti delle case in questo periodo di crisi, si sia sviluppato anche il fenomeno dello scambio delle case. Sì, diciamo che è un fenomeno che sta crescendo in Europa, ma anche in Italia si sta diffondendo sempre più. Per fare vacanze ci si scambia in genere la seconda casa, ma in Europa spesso anche la prima casa viene ceduta per 1 o 2 settimane in cambio di un soggiorno in Italia, o nello stesso periodo o in periodi diversi. È un accordo tra i proprietari di scambio, è un accordo che viene diciamo sancito nei minimi termini, quindi ci si scambia a volte anche la macchina, si lascia la macchina per dare la possibilità a chi arriva di fare anche delle gite, insomma vedere anche il territorio. E quindi tutto regolarizzato, in genere non ci sono casi di vandalismo, anzi chi lo pratica dice che ha sempre trovato situazioni positive, sia con gli inquilini che vengono che andando poi all'estero, e si viaggia in tutto il mondo in questo modo, ci sono dei siti proprio specializzati che consentono di mettere il proprio annuncio e poi di contattare invece gli altri proprietari. A maggior ragione qui è necessario proprio scrivere tutto nei minimi termini, perché non essendoci poi un corrispettivo in denaro esatto, diciamo si può incorrere in alcuni come dire tra virgolette pericoli, anche se poi come tu dicevi sono forse pochissimi i casi di racconti di esatto, mobilio danneggiato o altro, insomma. Esatto, perché chi lo fa ha proprio l'attenzione per la casa nella quale alloggia, visto che lascia la propria in mani semi sconosciute, quindi c'è un po' di una mentalità abbastanza attenta poi alle cose altrui. Vorrei invece tornare alla domanda che ha scaturito poi questa riflessione: è possibile affittare la prima casa? Velocemente, il dottor Grandin, immagino che non ci siano problemi. Non c'è assolutamente nessun problema, non ci sono vincoli per la prima abitazione, è normata sempre dal codice civile, si può comunque affittare. Allora, io sono rimasti davvero pochi minuti, vorrei salutare con tutta calma i nostri ospiti. Saluto Osvaldo Grandin, che è esperto del mercato turistico immobiliare per la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, grazie per essere stato con noi, e saluto anche il dottor Massimo Gandoni, responsabile nuovi progetti di Solo Affitti per Solo Affitti Vacanze. Grazie anche a lei per aver risposto alle nostre domande. Saluto anche la collega del Sole 24 Ore che è intervenuta personalmente, fisicamente in studio con me, Paola Dezza. Grazie Paola. Grazie a voi, saluto a tutti. E invece a tutti voi ricordo che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e il Sole 24 Ore, in collegamento con i consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, presentano il Forum Lavoro 2012. L'evento è previsto per domani 30 maggio dalle 9.30 alle 13.30, sarà trasmesso sui canali satellitari 915, 878, 918 in streaming su www.ilsole24ore.com/forum lavoro. C'è tempo fino a domani per mandare i propri quesiti agli esperti. E così siamo arrivati anche all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con INPS, che ci aiutano a conoscere le novità e a capire i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo dei coefficienti di trasformazione nel metodo di calcolo contributivo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Nel metodo di calcolo contributivo svolgono un ruolo importante i coefficienti di trasformazione. Che cosa sono e come funzionano? Il metodo di calcolo contributivo è basato, come dice il nome stesso, sull'ammontare dei contributi versati. Quando si va in pensione si sommano tutti i contributi accumulati e rivalutati di anno in anno e si trasformano in pensione. I coefficienti di trasformazione non sono altro che numeri fissati per legge e soggetti a essere cambiati ogni 3 anni. Servono per trasformare l'ammontare dei contributi in rendita mensile. I coefficienti sono correlati all'andamento dell'economia e all'età al momento del pensionamento. Più è elevata, più i coefficienti sono vantaggiosi. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.